Eccoci qua, Senza Frontiere, puntata numero 9 e seconda parte dell'intervista dedicata a Nuovo Orizzonte. Questo periodo, allora, loro costituiscono Nuovo Orizzonte nel... Nel 1998, gli accordi di pace sono nel 96, poi c'è la fase transitoria della smobilitazione, loro praticamente nel 98 si insediano in questo periodo. Diciamo in questo periodo, diciamo, il periodo più difficoltoso dura circa... Dura alcuni anni. Alcuni anni, fino all'inizio, al 2002, 2000, sì, 2003. Certo. E l'estensione della cooperativa? Allora, l'estensione della cooperativa è di circa 900 ettari. In questi 900 ettari, quelli di terra coltivabile sono circa 300-350. No, meno, sono circa, sì, 300, tra i 280-290. Poi c'è una grande parte, circa un terzo sono terreni in parte a pascolo, in parte sono terreni loro chiamano potreros, quindi quando c'è la stagione delle piogge si allagano, quindi non sono adatti per la coltivazione, però possono essere adatti, sono adatti per l'allevamento, diciamo per il pascolo. E poi ci sono anche molti ettari che sono costituiti da selva tropicale e in parte da un settore su cui loro, la cooperativa è intervenuta con un processo di riforestazione, utilizzando soprattutto pino. E mi sembra, allora, l'estensione più o meno è rimasta la stessa fino ai giorni nostri, semplicemente con fatica, diciamo, sono stati via via utilizzate porzioni sempre più ampie di una grandezza, un terreno che comunque è rimasta sempre la stessa. Mi sembra ci sia questa, mi sembra, cioè questa particolarità del bosco della vita? Sì. Sì, sì, allora il terreno è rimasto quello. C'è da dire che, come si diceva all'inizio, loro si sono insediati come, di fatto, come occupanti. È stato un percorso molto lungo, controverso e contraddittorio, in cui a riuscire ad arrivare a avere, diciamo, un'assegnazione e un riconoscimento di questa terra, di questi 900 ettari, effettivamente in proprietà alla cooperativa. Hanno rischiato più volte di essere sgomberati, i precedenti proprietari pretendevano il pagamento di, non mi ricordo le cifre, ma insomma rispetto ai loro bilanci, alle loro finanze, delle cifre non sostenibili. Quindi prima di tutto rispetto alla questione della terra, sì, è vero, è rimasta quella sulla quale si era insediata inizialmente, ma è stato un percorso molto complicato per riuscire a ottenerla con il riconoscimento di proprietà della cooperativa. L'altro aspetto è stato quello di sviluppare il più possibile, in base alle caratteristiche di questi terreni, delle forme di produzione per il sostentamento della cooperativa. Quindi, innanzitutto, coltivazione di prodotti per l'alimentazione quotidiana, per il sostentamento quotidiano. Secondo, l'allevamento di mucche, di bovini, soprattutto per la carne, per la vendita di carne. Poi in una laguna abbastanza estesa, che è all'interno di questi 900 ettari, l'allevamento di pesci, anche questi sia per il consumo interno della cooperativa che per la vendita. Poi è stato molto importante per loro un progetto di riforestazione, cioè loro hanno riforestato principalmente con pini una grande quantità di ettari, ora non mi ricordo l'estensione, e in cambio di questo loro hanno avuto dei, diciamo, sussidi, dei finanziamenti come, diciamo, progetto ecologico di riforestazione del territorio. Ci sentiamo sempre dalle parole di un partecipante, di un fondatore della cooperativa Nuovo Orizzonte, in questo caso un brevissimo estratto proprio su quelle sono le finalità, quelli sono gli obiettivi che erano e che sono rimasti tuttora gli obiettivi della cooperativa. La maggioria di veterani di guerra, che así le llamamos nosotros, entonces nosotros creíamos que reagrupándonos en comunidad nos era mucho más fácil no solo enfrentar el nuevo reto, que era la incorporación a la vida civil, sino que también nos podía permitir defendernos de algún adversario que tuviera actitudes negativas a los acuerdos de paz. En esta situación, esta experiencia es vista, sotto certi aspetti, como un ejemplo, ecco. Di gestione, dato di gestione della terra e nello stesso momento di non solo dal punto di vista dell'organizzazione sociale, ma anche dal punto di vista della coltivazione, del modo di come portare avanti la coltivazione, l'allevamento e via dicendo. E quindi alcune organizzazioni dal basso, collettivi, solidarizzano, simpatizzano e solidarizzano e portano una solidarietà concreta a questa cooperativa. Sì, sicuramente rappresento un esempio, innanzitutto rappresento un esempio nel contesto del Gemalteco e nel contesto del Petenio, cioè l'esempio, lo ha accennato Roni nel breve passaggio che abbiamo sentito prima, del fatto che una organizzazione fondata su il collettivismo, sull'autogestione, sulla solidarietà e anche diciamo su una capacità organizzativa, su un certo livello di disciplina, è in grado di dare da un punto di vista proprio delle condizioni di vita, delle condizioni materiali, dei risultati molto superiori rispetto a quelli che sono rispetto a quelle che sono le condizioni di vita della gran parte delle realtà contadine guatemalteche. Questo tipo di modello ha permesso a chi vive a Nuevo Horizonte non solo di avere livelli, si diceva, materiali, quindi di alimentazione, di tutela della salute, ma anche per esempio di avere accesso, lo accennavo prima, a una scuola dal grado più basso dell'asilo nido, passando per le elementari e arrivando, appunto dicevo, è stata una delle loro più grandi realizzazioni, una delle cose sulle quali hanno puntato di più, arrivando ad avere la scuola secondaria fino alle scuole superiori. Una scuola che è autogestita dalla cooperativa, i cui programmi sono decisi dalla cooperativa e hanno naturalmente una connotazione strettamente legata a quella che è, da un lato, l'esperienza di lotta, il bagaglio di lotta della guerriglia, e dall'altro quella che è la visione politica e gli obiettivi politici di trasformazione sociale che la cooperativa ha per il presente e per il futuro. Quindi in questo senso è un esempio, prima di tutto per il territorio, per la realtà guatemalteca, però appunto, come dicevi te, è un'esperienza che ha raccolto l'attenzione, la solidarietà e la partecipazione anche di diverse realtà, in particolare realtà di compagni, di compagni di diverse parti del mondo, dall'Europa, dall'Italia, ma anche da altri paesi e anche da... Sembra Canada, Nord Corea, no, Sud Corea anche. Cioè, ho visto la Canada sicuramente, Sud Corea non lo so, però sicuramente questo aspetto dell'apertura a una dimensione internazionale, sia fatta di appoggi anche concreti, materiali, contributi finanziari, raccolte di fondi per permettere lo sviluppo di determinati progetti, ma anche un'apertura fatta di interscambi politici e di costruzione di relazioni di solidarietà, questa apertura fin dall'inizio i compagni di Nuovo Orizzonte l'hanno individuata, penso molto correttamente, molto chiaramente, come uno dei fattori che avrebbe permesso alla cooperativa di consolidarsi, di svilupparsi e di diventare una realtà che anche per lo Stato guatemalteco risultava più difficile provare a reprimere e provare a cancellare. E in questo senso anche questo aspetto è stata, diciamo, una scommessa che sono riuscito a vincere con molta, diciamo, molta lungimiranza, con molta capacità politica. Dicevi anche la questione del come producono, no? Perché questo è un altro elemento centrale un po' del progetto politico della cooperativa. Quindi dicevamo il collettivismo, l'autogestione, la partecipazione dal basso, la solidarietà, ma un altro aspetto, loro sono contadini, è una realtà contadina, una realtà... Lo erano anche prima di diventare, prima di essere guerriglieri, per alcuni per scelta, alcuni per necessità, comunque... Lo erano anche prima di diventare guerriglieri, e questa loro realtà contadina, questo loro aspetto del legame con la terra, è una cosa che sempre rivendicano. E in questo senso parte integrante del progetto della battaglia politica di un nuovo orizzonte è anche quello di proporre un altro modo di fare agricoltura, un altro modo di produrre in ambito agricolo. Quindi innanzitutto un modo che si contrappone completamente e frontalmente al modello della monocoltura, che è quella che viene imposta soprattutto, anche se non solo, ai paesi dell'America Latina, ma insomma in generale ai paesi del cosiddetto terzo mondo, no? Viene imposto dalle grandi multinazionali o anche da capitali locali. Quindi il rifiuto della monocoltura è un modello invece di agricoltura sostenibile. Quindi ora io non entro tanto nel merito, nel dettaglio, ma che comunque si basa anche sul recupero o la messa in pratica, nel caso loro non è propriamente un recupero perché non si sono mai perse, delle conoscenze e delle pratiche anche più tradizionali, che quindi permettono per esempio di eliminare o di limitare l'uso di tutta la dimensione chimica, no? Di pesticidi e via dicendo, concimi e via dicendo. Quindi comunque questo è un elemento assolutamente diciamo centrale del loro progetto, un altro modo di produrre, un altro modo di fare agricoltura che non sia impattante né diciamo per i terreni, per l'ambiente e né per il cibo che poi ne viene fuori. No, faccio un piccolo passo indietro anche per esemplificare il fatto che oltre alla solidarietà internazionale c'è anche il riconoscimento, diciamo così, anzi il riconoscimento senza, diciamo così, da parte delle popolazioni, delle persone, della gente che vive vicino, nelle vicinanze di Nuovo Orizzonte, pur non essendo parte della cooperativa, la scuola, pur avendo fortunatamente un insegnamento così particolare, è frequentata anche da i ragazzini che non sono di Nuovo Orizzonte, addirittura riconosciuta proprio come una scuola che è frequentata. Ecco, sì, anche sì, da... ecco, questo è un aspetto importante, perché come dicevo, la scuola è autogestita, i programmi li determinano loro, ma sono riusciti ad ottenere per tutti questi gradi di scuola il riconoscimento ufficiale, cioè chi si diploma a Nuovo Orizzonte ha un diploma che è riconosciuto ufficialmente in Guatemala. Sì, questo è vero, questo è un altro aspetto che loro hanno sempre portato avanti e che ovviamente è parte integrante della loro pratica, cioè proiettarsi all'esterno, proiettarsi sul territorio, proiettarsi sulla realtà sociale del Petén e del Guatemala. Questo lo hanno fatto e lo fanno sia mettendo nei limiti del possibile a disposizione di persone che non sono ovviamente della cooperativa le infrastrutture, i servizi che loro hanno costruito o gestiscono, tipo la scuola, ma anche per esempio l'ambulatorio medico e la farmacia. E poi questo intervento sul territorio lo hanno fatto fin dall'inizio cercando di organizzarsi con altre comunità e dando vita a delle reti. In particolare hanno costituito un'esperienza che si chiama Alleanza per la Vita e la Pace del Petén, che fin dagli anni 2000 è stata, non solo in Petén ma in Guatemala, uno dei soggetti protagonisti delle lotte contro le politiche neoliberiste, contro l'applicazione del trattato di libero commercio tra Centro America e Stati Uniti, contro il progetto, il piano Puebla Panamá, che forse qualcuno l'ha sentito nominare, comunque diciamo un progetto di realizzazione di grandissime infrastrutture come dighe, grandi strade, diciamo un progetto di ulteriore approfondimento dell'appropriazione delle risorse di tutto il Centro America da parte degli Stati Uniti, da parte delle multinazionali. Quindi questo è un aspetto importante, cioè la cooperativa diciamo si è costruita, si è sviluppata e continua a farlo al suo interno, da un punto di vista produttivo, da un punto di vista dei servizi eccetera, ma non ha mai smesso di portare avanti anche delle lotte, delle forme, delle esperienze di conflitto sociale e di organizzazione anche all'esterno, anche sul territorio, con altre realtà, altri contadini e altre comunità. Tra l'altro io ho visto delle foto un po', no, per, quando mi sono documentato, non essendoci, diciamo, grandi o comunque riconosciuti, come dire, grandi associazioni, ecco, nella zona, non avendo un terreno o uno spazio così vasto, molto spesso succede che, per esempio, per le feste locali, via dicendo, venga utilizzato questo spazio, specialmente quello del ristorante, no? Mi sembra, per le feste locali. Stiamo parlando di una realtà, eppure avendo quella a noi ci sembra un'estensione anche abbastanza vasta, insomma, no? Dal punto di vista del terreno da utilizzare per l'allevamento e per la cultura, è circondata, diciamo, da quelle sono le fazendas, insomma, no? Comunque da grandi proprietà terriere. Per esempio, dall'altra parte della strada, ricordiamo che il Nuovo Orizzonte è proprio su la strada statale che collega due delle principali città del Guatemala, andando verso nord e sulla sinistra. Sulla destra, proprio davanti al Nuovo Orizzonte, c'è una tenuta vastissima di migliaia di ettari che è di proprietà dell'attuale presidente del Real Madrid, per dire, insomma. Sì, certo. Infatti, come si diceva, la questione della terra in Guatemala rimane un nodo politico, sociale, centrale. La caratteristica della proprietà della terra in Guatemala è assolutamente quella del latifondo, immenso e in parte di questi latifondi lasciati in forma improduttiva. In questo senso il fatto che un gruppo di ex guerriglieri si sia di fatto sia riuscito a strappare, ad appropriarsi di una terra e riesca ad autogestirlo, a gestirlo in questa forma comunitaria, comunista, diciamo, rappresenta veramente insomma, un'eccezione, un elemento che in parte, anche se probabilmente la realtà, la situazione guatemalteca è complessa e difficile, comunque continua a rappresentare una spina nel fianco per l'oligarchia guatemalteca, per le forze reazionarie del Guatemala. E questa è un'esperienza che sta andando ancora, e anche bene, sta andando ancora avanti e ha mantenuto i suoi principi. Ecco, se sentiamo un altro estratto dell'intervista in cui appunto vengono ribaditi questi principi qui. Nosotros tenemos un no a la privatización. Nosotros creemos que nosotros podemos producir de manera colectiva. Teniendo, por decirte en algo, la tierra en propiedad comunitaria. En asunto de producción, nosotros tenemos tres modelos de producir. Uno que le llamamos la producción colectiva, donde toda la comunidad se involucra en el desarrollo de proyectos de beneficio puramente social que garantiza los ingresos para el desarrollo comunitario, los ingresos para reforzar la salud, para reforzar la educación y todos los aspectos de carácter social, como es el proyecto de la ganadería, como lo es el proyecto de la piscicultura y como lo es también el proyecto de la reforestación y forestación. Y tenemos otro tipo de proyectos que le llamamos semicolectivos, o sea, grupos de interés, que la misma estructura de la cooperativa los organiza, les da la asesoría técnica y les consigue el financiamiento para que este grupo de interés pueda producir X producto y que de las ganancias de ese producto puedan repartirse utilidades ellos en apoyo a sus propias familias. Y de esas utilidades pasa una parte también hacia un por ciento a una caja chica de los grupos de interés para crear nuevas asociaciones. Un grupo de interés puede ser conformado no menos de 3, no más de 8. Para su operatividad. Y esto, pues, la cooperativa lo patrocina, lo apoya para garantizar de esa manera el desarrollo grupal. Aparte de eso, también tenemos la producción individual, que esta producción individual es como el autoconsumo. el diario de la casa, como es el maíz, el frijol, todo lo que son tubérculos, como también hortalizas y algunas frutas. ¿Verdad? Entonces, esto también la cooperativa lo promueve y lo apoya para el fortalecimiento de la canasta básica, podríamos decir, o de la dieta alimenticia de la casa. Entonces, esos tres modelos a nosotros nos permiten tener un equilibrio y una sostenibilidad y un mejor desarrollo comunitario. Questi progetti ha menzionato recentemente e che sono, penso, te lo chiedo, tuttora in forze, vivi e vegeti, se ne sono aggiunti altri o diciamo è stato pensato soltanto a dare solidità a questi? No, sì, allora intanto sì, i progetti sono vivi e vegeti, si sono sviluppati, consolidati, tutti quegli esempi che facevamo, allevamento, produzione agricola, riforestazione, allevamento di galline e via dicendo. A questi se ne è aggiunto in particolare uno che per la cooperativa è particolarmente importante, che è il progetto del turismo solidario, È un progetto che hanno iniziato a sviluppare già da alcuni anni e che consiste essenzialmente nell'avere creato alcune minime infrastrutture di accoglienza, quindi delle camere, un ristorante, per appunto poter ricevere, in base a delle tariffe che sono estremamente economiche per noi in particolare, i nostri standard, dei turisti che vogliano il turismo solidale, sì, visitare la cooperativa. E la cosa particolarmente interessante di questa esperienza del turismo solidale, oltre a essere ovviamente un'occasione di introiti per la cooperativa, è il fatto che loro organizzano delle visite guidate che sono molto centrate sulla trasmissione ai turisti che arrivano della loro storia, della loro esperienza, della storia del Guatemala, dell'esperienza politica della guerriglia e di quella che è la loro visione e il loro progetto politico. Naturalmente queste visite comprendono anche, è ovvio, i luoghi più interessanti e più belli del PPN. Sì, come detto precedentemente, Tikal e Flores distano 50 km neppure. Diciamo gli aspetti storici e archeologici e anche gli aspetti naturalistici, quindi loro organizzano dei brevi giri in tratti di selva tropicale, ci sono lì vicino delle cascate, quindi diciamo che sono delle visite appunto sia storico-archeologiche sia naturalistiche, variano a seconda diciamo dei pacchetti che si scelgono, che possono essere di un solo giorno, di due, di tre, fino a una settimana se non sbaglio. Però ecco, l'aspetto interessante è che da parte loro c'è sempre questa attenzione nelle cose che portano avanti a mettere sempre in rilievo la dimensione politica diciamo del progetto. Quindi una novità particolarmente importante sulla quale loro stanno puntando molto con questa doppia funzione di sostentamento e di apertura e di rilancio politico è questo del turismo solidale. Diciamo che danno, è un compendio, ecco, si capisce il Guatemala, perché da un lato queste visite guidate a quello che è diciamo la storia del Guatemala, la storia diciamo anche prima dell'invasione bianca, perché Tikal, un sito archeologico che data dall'inizio diciamo di quella è la nostra era cristiana. Flores è una cittadina situata vicino a Tikal che comunque, anche se ha avuto un notevole sviluppo ora, comunque è al centro diciamo di una zona e conseguentemente del vissuto di un'etnia che tuttora mantiene le proprie tradizioni, e nello stesso momento c'è diciamo quella è la storia moderna del Guatemala che in parte è stata fatta anche da loro, da quelli che ve la spiegano. Certo. Ecco, e allora, c'è un'operativa, c'è un gruppo di guerriglieri che lasciano le armi perché però continuano a portare avanti un progetto di coltivazione, anche perché erano appunto, come si è detto, contadini precedentemente, con tecniche diciamo non invasive, e la stanno tuttora continuando a portare avanti, tant'è che l'operativa, se non dal punto di vista del territorio, della vastità del territorio, si è comunque ingrandita sia dal punto di vista delle culture, degli allevamenti praticati, sia anche da un punto di vista degli abitanti che ci vivono. Tutto ciò, come sono prese le decisioni? Allora, dal punto di vista dell'organizzazione, la cooperativa ha come fondamentale organo decisionale l'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci è l'organismo che prende le decisioni fondamentali su tutti gli aspetti che riguardano la vita della cooperativa. L'Assemblea dei Soci inoltre elegge un comitato direttivo. Comitato direttivo composto di un numero di membri abbastanza ridotto che hanno degli incarichi operativi, esecutivi, di seguire alcuni aspetti della vita, dell'amministrazione, della gestione della cooperativa, e viene eletto un presidente a rotazione che resta in carica come comitato direttivo, mi sembra, un paio d'anni, e poi viene, e che naturalmente in qualunque momento dall'assemblea dei soci può essere tanto il presidente quanto il comitato direttivo modificato o revocato se dovessero subentrare delle problematiche. In più esiste come un organo consultivo di accompagnamento quello che è chiamato il gruppo dei veterani, cioè i combattenti, le combattenti della guerriglia con più esperienza, con un più lungo percorso nella lotta, hanno, diciamo, anche formalmente, ufficialmente, in questa forma del gruppo dei veterani, un riconoscimento di un ruolo politico nel presente della cooperativa. Naturalmente non è un organismo che possa prendere delle decisioni o che abbia delle funzioni. Una specie di consiglio dei saggi, diciamo. È una specie di consiglio dei saggi. E il senso di questa cosa non è tanto formale, che ovviamente col passare degli anni, ormai dei decenni, se pensiamo 98-2018, col succedersi delle generazioni, ovviamente il rischio che una certa continuità politica e di progetto quantomeno si indebolisca oppure si perda, questo rischio c'è. Diciamo una sorta di memoria storica, sostanzialmente. Mantenere la memoria storica significa anche però una garanzia di mantenere la barra del progetto, degli aspetti politici del progetto in una certa direzione. Ora, detto così, sembra una cosa come dire, estremamente, cioè abbastanza formale, ma in realtà tutti questi soggetti che fanno parte dell'organo consultivo oppure del direttivo, vivono tutti lì, vivono tutti insieme, non ci sono separazioni dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista della redistribuzione del raccolto, diciamo, o di quello che è stato prodotto dall'allevamento e via dicendo. No, certo, questo è un aspetto fondamentale. Tutti i soci contribuiscono in misura assolutamente pari. Cioè la carica non comporta un maggior guadagno, ecco, diciamo. No, non sono le cariche, poi sarebbero queste del presidente e questa rimedia del consiglio direttivo, non comportano nessun guadagno, ma non solo, ma il presidente e i membri del consiglio direttivo devono partecipare alle attività produttive della cooperativa esattamente nella forma di tutti gli altri. Questo vuol dire che se per esempio, non so, per l'allevamento delle vacche è stabilito che ogni socio deve dare 8 ore di lavoro al mese, lo fanno tutti senza. Poi sono cariche che possono essere revocate. Sono cariche che ovviamente possono essere revocate e che sono diciamo, vengono assegnate a girare nel corso degli anni, quindi c'è mai stato a turnazione, insomma. Sì, come una turnazione, c'è mai stato qualcuno che ha fatto il presidente della cooperativa per 10 anni o per 15 anni. Sì, questo è un aspetto fondamentale, cioè le attività produttive vengono portate avanti in modo ugualitario da tutti i soci della cooperativa, secondo delle quantità appunto di ore di lavoro prefissate in base a quello che richiedono le varie attività. E ci sentiamo un altro pezzo, un altro breve estratto dell'intervista in cui, un auspicio, ecco. Horizontes con su propria qualità, con su propria affinità, o sea, che nazcan muchos horizontes a nivel nacional, porque si no nosotros seríamos como una gota de agua dulce en medio del océano, o sea, desapareceríamos, no tendría sentido. Beh, e questo era uno dei fondatori, sì, dell'operativa, no? che mi rimarcava ulteriormente quelli che sono quello che è la loro visione, ecco, la loro visione del mondo. Quindi tutto quello detto precedentemente e tutto quello precedentemente che sia il più possibile stesso creare dos muchos, un nuovo orizzonte, ecco, da questo punto di vista. Questo è un aspetto, penso, fondamentale sia della loro visione, ma insomma in generale, la questione di coltivarsi un orticello, di ritagliarsi una realtà. Quindi dopo 20 anni la cooperativa Nuovo Orizzonte è ancora lì, è ancora viva e vegeta, si è ulteriormente sviluppata da quando si sono installati lì i primi abitanti, diciamo così, Nuovo Orizzonte. Addirittura sulle mappe, ecco, sulle cartine è citata proprio come un villaggio, cioè, se uno guarda Cantina del Guatemala, vede che su questa strada, sulla statale 2, mi sembra, 1, 2, 2, al chilometro 449, 46, ricordiamo che i chilometri sono contati tutti a partire da Ciudad de Guatemala, quindi in questo pezzo di strada, sì, è una statale, però non è come le nostre statali, da questo punto di vista, sulla sinistra, venendo da sud e andando a nord verso il Petén, diciamo, verso Tikal, verso Flores, sulla sinistra si trova questa cooperativa, c'è anche un cartello statale, scritto Nuovo Orizzonte, e per chi ci vuole andare, anche un invito, per chi è di là dell'aspetto, diciamo, prettamente o solamente solidale, no? Quindi le brigate di solidarietà, volontarismo e via dicendo, però che ci passa anche da un punto di vista turistico, dal punto di vista della visita di una realtà che comunque fa già parte del panorama di quella zona del Guatemala, quindi si può fare, ci sono non solo la cultura e l'allevamento, ma ci sono anche le infrastrutture per ospitare, per fare un turismo solidale e nello stesso momento visitare quelle che sono, diciamo, importanti siti da un punto di vista archeologico, da un punto di vista culturale di quella parte del Guatemala. E quindi vi diamo anche non solo le coordinate, ma anche tutti i vari, le coordinate web, le coordinate social di Nuovo Orizzonte. E quindi l'indirizzo di posta elettronica Turismo Orizzonte, ricordiamo Orizzonte sempre con l'H davanti, quindi turismoorizzonte@gmail.com, il sito web è www.coopnuovoorizzonte.org, profilo Facebook è Cooperativa Nuovo Orizzonte, il chilometro in cui è situata la cooperativa è il chilometro 443 e non 446 come detto precedentemente. Per finire niente, io invito chi ha o l'occasione di andare a fare un viaggio in Guatemala o in Centro America, o chi ha la curiosità specifica di andare a conoscere la cooperativa, ma anche soltanto di volesse andarci di passaggio per pochissimo tempo, a farlo, perché oltre ad essere una realtà estremamente interessante, sicuramente dal punto di vista dell'accoglienza che si riceve non se ne resta, non se resta sicuramente male, ecco. Invito veramente ad andare a visitarlo. Ci fermiamo qui, Senza Frontiere questa volta appunto ha affrontato un argomento che riguarda una parte, una zona lontana da un punto di vista geografico, ma vicina, diciamo, da un punto di vista dell'appartenenza, ecco, da quello a cui pensiamo si debba un percorso, ecco, un percorso di iniziative, un percorso di lotta. E ricordiamo che Senza Frontiere va in onda, anzi la state ascoltando su Radio Wombat, la state ascoltando dal sito wombat.roblox.org in streaming, e va appunto in onda in streaming tutti i lunedì alle 13.30 e in replica, replicando la trasmissione dal martedì al venerdì sempre alle 13.30. Vi ricordiamo anche l'account Twitter di Radio Wombat, twitter.com/radiowombat.fi, la posta elettronica postawombat@inseveria.net, e qualora voleste riascoltare la trasmissione con calma, oppure scaricarla, risentirla successivamente, oppure indicare agli amici, conoscenti, compagni come ascoltarla se non l'avete sentita né in diretta né durante le repliche, potrete ascoltare o scaricare il podcast di Senza Frontiere, ma anche di tutte le trasmissioni di Radio Wombat, che è la sezione Wombat, sempre sul sito wombat.noblogs.org. Ciao, ciao. Ciao a tutti.